Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, per chiudere una stagione che magari per molti di voi è stata dedicata al viaggio, vi segnalo un libro di un grande letterato italiano di cui spesso abbiamo qui parlato, e cioè Giorgio Manganelli. Di lui esce il libro Cina e Altro Oriente, pubblicato da Adelphi, 348 pagine, 22 euro. Manganelli aveva cominciato a viaggiare tardi per ragioni di lavoro, in plaghe lontane, siamo all'incirca negli anni 70, quando aveva accettato una commessa propagandistica, come venne definita, per una società straniera che stava realizzando un'importante commessa in Africa orientale e gli fece scrivere alcuni articoli di circostanza. Poi viene la Cina, dal viaggio nella quale ricava alcuni articoli per il giorno raccolti in un volume, appunto uscito con questo titolo nel 1974. E questa è non tanto la riedizione di quel volume, ma la pubblicazione di un nuovo volume che lo stesso Manganelli aveva curato fino a poco tempo prima di morire nel 1990, inserendo altri testi, per esempio la cronaca geniale, devo dire, della visita del Presidente della Repubblica Leone in Arabia, la famosa cena che egli ebbe in una tenda col re Faisal, una visita che Manganelli seguì per il settimanale Il Mondo. Si parla dunque di Cina, di Medio Oriente, di Malesia, di Filippine, di Taiwan, di Pakistan. L'uomo è per Manganelli l'unico animale viaggiatore, perciò lo contrappone al gatto che ha fatto della immobilità, scrive, la propria meta, l'ideale di una vita bene spesa. Il gatto è l'inventore del parcheggio cosmico nel quale indugiano le anime tra un'incarnazione e l'altra. Per l'uomo il viaggio all'inizio era una cosa inquietante, ci ricorda Manganelli. Ad essa si dedicavano, e solo per guadagno, uomini duri ed avidi, furbi e spietati. E un viaggiatore, Ulisse, su questo fa delle riflessioni molto interessanti, delle quali parleremo adesso con il curatore di questo libro, che è Salvatore Nigro. Buongiorno a Salvatore Nigro. Salve, eccomi qui, un saluto a tutti. Buongiorno, Salvatore Nigro, partiamo dall'attitudine che aveva Manganelli verso il viaggio. Manganelli, lei spiega, diventò un viaggiatore tardi, era un viaggiatore pigro e cercava nel viaggio il modo non per fare esperienza del mondo e di ciò che esso è, come lei scrive, ma per fare esperienza di sé con l'altrove, con il diverso. Ecco, che cosa rappresentava il viaggio, insomma, per Manganelli? Dunque, l'inizio dell'avventura di Manganelli come viaggiatore ha una responsabilità. La responsabilità è quella di Bernard, che era il suo analista, perché Bernard complottò insieme ad alcuni amici per respingere il Manganelli a uscire fuori dalle sue nevrosi affrontando il mondo, e il viaggio poteva essere una soluzione. Manganelli si convince di tutto questo soltanto nel 70, quando uscì in Italia il diario dei viaggi in Africa di Jungo. Jungo spiegava che per un europeo mettersi dal punto di osservazione di uno non europeo, cioè mettersi a viaggiare dentro quella che era la periferia del mondo occidentale, poteva significare superare le nevrosi scoprendo gli strati di una civiltà più primitiva e diversa. E lì comincia l'avventura del manga. E infatti lei scrive che quando andò in Africa, Manganelli ricavò da questo viaggio un sorprendente catalogo di simboli, qualcosa che serve a chiarire il mondo del malessere europeo. Questo era lo stesso Manganelli. Lui si convince di una cosa importante, che in questi mondi come l'Africa non è importante l'uomo, quindi l'antropocentrismo, ma è importante la natura. E la natura lui la legge in chiave leopardiana, cioè è una natura che è indifferente all'uomo. E la cosa più straordinaria è quando lui dice che i monumenti più belli dell'Africa e quelli più interessanti sono gli animali e gli alberi. E infatti uno degli elementi che ricorre in questi viaggi di Manganelli, nel suo commento a questi viaggi, è il rapporto che egli coglie tra i miti e gli uomini. Dunque, lui scopre che non sono gli uomini a inventarsi i miti, ma sono i miti che si inventano dentro l'uomo. E lui, fra l'altro, accoglie il mito di Ulisse, lo accoglie pienamente, con questa differenza, come lei mi diceva all'inizio, che mentre per Ulisse e per tutti i viaggiatori, fino, mettiamo, a Moravia, per fare un punto di riferimento più vicino a noi, vanno alla ricerca, cioè vanno alla scoperta del mondo, lui invece fa esperimenti rapporti con se stesso attraverso il mondo africano pur orientale. Ecco, poco fa ho letto a proposito di Ulisse qualche riga di Manganelli, nella quale egli, nella prefazione, il capitolo zero di questo libro, sottolinea come Ulisse alla fine sia il viaggiatore che voglia trasformarsi in nessuno. Questo è il destino dei viaggiatori? Sì, i viaggiatori veri sono quelli che riescono nel viaggio ad annullare se stessi per capitare tutte le cose segrete che il mondo da scoprire offre. Infatti la cosa più importante per Manganelli è che la sua scrittura non registra quello che si vede, ma l'invisibile, e per scoprire l'invisibile che si manifesta attraverso per esempio le cerimonie, le attrazioni, allora a quel punto il viaggiatore deve essere non più il solito viaggiatore Ulisse, ma il grande viaggiatore nessuno, che è quello che è la grande conquista dell'Ulisse finale. E quando Manganelli spiega le origini dei suoi viaggi, si presenta in una maniera molto, molto critica. Dice: nel 1972 un professore nevrotico si recò a Ferrara a trovare un caro amico e a comprare un paio di bretelle blu, lasciò il ruolo di docente psicolabile per acquisire quello di pensionato rancoroso e infine di facinoroso gazzettiere. Ecco, come mai questa evoluzione così ben descritta dallo stesso Manganelli? Il brano che lei ha letto fa parte di uno dei risvolti che Manganelli scrisse per una diversa edizione di Cine Oriente, perché Cine Oriente uscì nel 74 da Bombiani. Quella che si presenta adesso non è una ristampa, ma è un libro molto aggiornato, cioè con delle cose inedite che lo stesso Manga aveva accumulato e che voleva appunto offrire a un nuovo editore. Ora, in quell'occasione lui scrisse varie risvolte. Ora, i risvolti di Manganelli non sono dei risvolti qualsiasi, sono dei risvolti che lui filmava e sono dei veri e propri racconti. E allora sono divertenti questi racconti in cui c'è una forma di autodenigrazione, per cui lui si presenta come personaggio goffo che è costretto per esempio a infilarsi dentro quei cetacei di metallo che sono gli aerei, oppure costretto per esempio a condividere il viaggio con dei viaggiatori che vanno alla ricerca dell'esotico, in genere bulgari che non capiscono nulla, e altre facezze di questo genere qui. Cioè c'è una forma, ecco, ma questo è tipico anche di tutta la scrittura di Manganelli, cioè lui è anche un grande umorista. E per essere un umorista comincia da sé e soprattutto dal proprio corpo. Lui si presenta come corpo goffo che è costretto a fare sforzi sovrumani per resistere alle diversità attraversate attraverso i viaggi. E una prova di questo umorismo in queste stesse righe è l'elogio che ironicamente Manganelli fa della volgarità. Sì, perché lui si accorge quando viaggia, e cita tra l'altro un fumetto, cita il fumetto di Paperone dei Paperoni, no? E cioè ci sono questi viaggiatori che, ecco, soprattutto lui si intruppa con un gruppo di milanesi, i quali vanno in Oriente a cercare l'Occidente. Cioè la cosa più folle è che i viaggiatori dell'esotico vogliono trovare fuori dalla propria casa quello che hanno lasciato in casa, e quindi non vedono nulla e non capiscono nulla, e soprattutto non si premuniscono di fronte alla diversità. Per esempio, una cosa su cui lui insiste molto, che appena arrivano si danno ai piaceri della gola e il risultato sono malattie e infezioni impossibili, per cui vengono chiusi in luogo, insomma, il luogo intimo, e tornano senza aver visto nulla. Ecco, ai primi degli anni 70 poi scrive delle righe sulla Cina che sono assolutamente preveggenti. Scrive: non c'è dubbio che oggi la Cina è il più intenso e consapevole laboratore di futuro che esista sul nostro pianeta, è una terra profetica. Insomma, aveva visto bene Manganelli sulla aveva Cina. Aveva visto bene, perché il Manganelli viaggia senza pregiudizi, direi, politici o ideologici, lui attraversa questo mondo, soprattutto la Cina, attento a quello che ancora non si vede, torno lì all'invisibile, e capita una diversità e un futuro che gli altri invece, presi dall'ideologia, non vedono. E per esempio c'è una pagina inedita, straordinaria, quando Manganelli torna a Pechino e scopre per esempio che non c'è nessuna cosa che ricordi Mao. Cioè una Cina senza Mao. Il Mao clandestino. Mao clandestino. Grazie a Salvatore Nigro, curatore del libro di Giorgio Manganelli, Cina e altri orienti. Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Mete ugualmente esotiche, trattate dalla penna di un altro grande scrittore, e troviamo nel libro di Herman Melville, Viaggi e balene, edizioni Clichy, 160 pagine, 8 euro, tradotto da Fabrizio Bagatti. Questi sono scritti inediti del grande autore di Moby Dick, tra cui il primo, Autentici aneddoti del vecchio Zack, esprimono una vena satirico-umoristica dello scrittore che, come nota la prefazione, non era certo tra le più note di Melville. In questo caso sono cronache scritte proprio per un settimanale umoristico nel quale prese di mira il popolare generale Taylor, che fu poi eletto presidente degli Stati Uniti nel 1848. E poi abbiamo recensioni e una bellissima conferenza sul viaggio che meriterebbe di essere letta da chi viaggia per diletto, anche per l'invito a essere aperti e tolleranti, come spiegano queste righe che vi propongo. Riguardo ai profitti del viaggio, in primo luogo vi sbarazzerete di alcuni pregiudizi. Il nativo della Norvegia che si rechi a Napoli trova il clima così delizioso da controbilanciare quasi le miserie del governo. Il matador spagnolo, che crede devotamente nel proverbio crudele come un turco, va in Turchia e nota che le persone sono gentili con tutti gli animali. Vede cavalli docili, mai recalcitranti, gentili, obbedienti, estremamente intelligenti, senza che mai vengano battuti, e se ne torna a casa alle sue corride con un'impressione molto diversa della propria umanità. L'operatore di borsa va a Salonicco e trova gli infedeli più onesti dei cristiani. L'astemio trova in Francia un paese in cui tutti bevono e nessuno si ubriaca. Chi ha pregiudizi contro il colore della pelle trova diverse centinaia di milioni di persone di tutte le sfumature e di ogni gradazione di intelletto, rango e valore sociale, generali, giudici, sacerdoti e re, e impara a rinunciare ai propri sciocchi preconcetti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba e cominciamo a riaccostarci ai temi consueti dell'anno lavorativo. Per esempio, un tema importante è quello della politica. Lo possiamo fare in modo leggero e divertente con due libri che adesso vi propongo. Non nominare mai più quella parola in mia presenza, ma che tasse e tasse? Ma signore, ma che sta succedendo qua? Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Cassata, non ce ne pagano, caccio caccio. Avrete riconosciuto il politico Cettola Qualunque? Beh, era stato già inventato nel 1898, quando un grande scrittore italiano, Vamba, l'autore del Gian Burrasca, aveva dato vita al personaggio Onorevole Qualunquo Qualunqui, che sembra la quintessenza dei difetti che attribuiamo spesso alla politica. Il libro che viene riproposto si intitola appunto L'Onorevole Qualunqui, è pubblicato da Barion, 184 pagine, 14 euro. Ecco la presentazione che l'autore fa nel prologo dell'illustre parlamentare. L'onorevole Qualunquo Qualunqui rappresenta al Parlamento italiano il secondo collegio di dovunque dalla quindicesima legislatura e fino agli ultimi tempi ha fedelmente combattuto nel partito dei purchessisti, propugnando il programma qualsivoglia e appoggiando costantemente il gabinetto qualsisia. Come sentite, non è un uomo di straordinari principi e il libro rappresenta una satira corrosiva della politica nell'Italia giolittiana, pubblicata a puntate in un giornale che aveva fondato lo stesso Vamba. Non manca nelle cronache lo scandalo finanziario epocale, allora fu quello della Banca Romana, che costrinse qualche importante esponente finanziario a fare esperienza della cella, dove questi esponenti sono accolti da chi conosce la differenza tra irregolarità amministrative e furto. E allora al ladro che entra in prigione la guardia dirà: t'hanno preso, canaglia, preso col sorcio in bocca, bravo, questa è la brocca per te, quella è la paglia. E invece al finanziere che fa capolino nella cella ci si rivolgerà con queste parole: «Commendatore, passi, vede, questa è la stanza, i travicelli bassi, ma c'è aria abbastanza». L'altro libro sulla politica, questo attuale, di un giornalista torinese, Lorenzo Pregliasco, si intitola «Il crollo». Dizionario semiserio delle 101 parole che hanno fatto e disfatto la Seconda Repubblica, editori internazionali riuniti, 200 pagine, 12 euro. Questo è un vero e proprio dizionario, definito da Ilvo Diamanti nell'introduzione semiserio, in quanto, scrive Diamanti, l'autore ricostruisce personaggi, interpreti e copioni che spiegano le parole della politica del nostro tempo, senza particolare enfasi, senza particolari ammiccamenti, ma senza reticenza e senza perifrasi, e tanto basta per rendere semiserio il dizionario, perché viviamo in tempi semiseri o fin troppo seri, cioè inquieti e inquietanti come il linguaggio che li contrassegna. E di questi lemmi troviamo la definizione, una brevissima spiegazione, una descrizione dell'uso che si è fatto e una citazione esemplare sull'uso di quella voce. E quindi il libro rappresenta un modo divertente, ma anche un po' amaro, per ripercorrere molti orrori della politica e anche una diffusa propensione nazionale, soprattutto nei giornali, a inseguire lo slogan e il luogo comune. Una riflessione più austera sulla politica è quella di una grandissima figura del Novecento, Simone Weil, di cui pochi giorni fa è caduto il 70° anniversario della scomparsa. L'autrice era una grande filosofa e poche settimane prima di morire scrisse questa opera, Senza partito, obbligo e diritto per una nuova pratica politica. È pubblicato da Feltrinelli per i libri di vita, 88 pagine, 8 euro. È uno scritto certamente visionario e anticipatorio di molte polemiche successive sui contenuti della democrazia e sulla presunta sovranità del popolo, ben difficile da conseguire, scrive infatti la Weil. Il vero spirito del 1789 non consiste nel pensare che una cosa è giusta perché il popolo la vuole, ma che a certe condizioni il volere del popolo ha maggiori probabilità di qualsiasi altro volere di essere conforme alla giustizia. E perché la Weil dice no ai partiti? Perché un partito politico spiega una macchina per fabbricare una passione collettiva, un partito politico è un'organizzazione costituita in modo da esercitare una oppressione collettiva sul pensiero di ciascuno degli esseri umani che ne sono membri, fine primo e ultimo di ogni partito politico aggiunge il suo potenziamento senza limite alcuno. Quindi il partito, conclude la Weil, è totalitario in nuce e nell'aspirazione. Insomma, come scrive Marco Revelli nella introduzione, il moderno partito è contemporaneamente particolare e totalitario, obbliga a pensare per contrapposizione e pretende il controllo assoluto sul pensiero dei propri aderenti. Il cittadino ideale per la Weil deve essere responsabile, perciò la scrittrice dice che l'animo umano ha bisogno di verità e di libertà di espressione. Il bisogno di verità esige che tutti abbiano accesso alla cultura dello spirito senza dover essere né materialmente né moralmente forzati. Esige che nel campo del pensiero non si eserciti mai alcuna pressione materiale o morale dovuta a una preoccupazione che non sia quella esclusiva della verità. Questo implica il divieto assoluto, conclude, senza eccezione di qualsiasi propaganda. E a proposito di propaganda politica, vi segnalo un libro che ci racconta le vicende, per certi versi incredibili, di uno dei casi più clamorosi e a modo suo riuscito di propaganda, quella dell'Unione Sovietica ai suoi albori. Ce la racconta un giornalista di Libero, Martino Cervo, che ha pubblicato il libro Willy Münzenberg, il megafono di Stalin, pubblicato da Cantagalli, 132 pagine, 12 euro. Come recita il sottotitolo, si tratta della vita del capo della propaganda comunista in Occidente. Münzenberg è una figura tragica e dimenticata che, dopo aver dedicato la sua vita alla causa comunista, finì condannato a morte sia da Hitler che da Stalin e poi morì misteriosamente in Francia durante l'invasione tedesca. Su di lui cadde il silenzio, eppure egli era stato una pedina fondamentale nel movimento comunista, al quale aveva dato un contributo fondamentale con il Soccorso Operaio Internazionale. E proprio a lui Lenin aveva affidato l'organizzazione della solidarietà alla causa comunista in campo capitalistico, facendo base a Berlino, come ci spiega l'autore. Nasce con Münzenberg la propaganda moderna, e cioè, ci viene spiegato, manifestazioni, campagne d'opinione, editoria, cinema. Nasce insomma la politica culturale comunista in Occidente, quella che avrebbe fatto abbracciare la causa comunista a tantissimi intellettuali. Per esempio, fu lui a costruire in qualche modo il successo mondiale del film La corazzata Potemkin. Insomma, Münzenberg fu una figura fondamentale per capire come si sia sviluppata la dinamica che alimenta la simpatia simpatia per l'URSS con un trasbordo intellettuale che sposta verso Mosca un ideale utopico. Di questo processo Münzenberg fu uno dei padri, uno dei padri anche dell'ideologia come moda, dell'impegno come affermazione sociale. Fino all'amara conclusione. Münzenberg infatti finirà col capire che non ci si può opporre al nazismo senza opporsi contemporaneamente al comunismo stalinista e tenterà di dare vita a un fronte di opposizione democratica e liberale per preparare il futuro della Germania post-hitleriana. Abbiamo ricordato qualche giorno fa l'anniversario del 25 aprile, ricordiamo adesso un altro 70° anniversario di un'altra fase drammatica, convulsa, tragica in certi versi della storia nazionale, e cioè l'8 settembre. Viene rievocato questo periodo nel libro di Claudio Fracassi, che è un giornalista e scrittore, che si intitola La battaglia di Roma, 1943, i giorni della passione sotto l'occupazione nazista, è pubblicato da Mursia, 536 pagine, 18 euro. Si comincia appunto all'alba dell'8 settembre, quando l'ambasciatore tedesco viene rassicurato dal re in persona che l'Italia avrebbe continuato la guerra al fianco della Germania. Roma è ormai sotto il terrore di essere bombardata e poche ore dopo quell'incontro lo stesso ambasciatore viene a conoscere da Ribbentrop dei sospetti tedeschi che invece l'Italia è pronta ad abbandonare la Germania e a firmare l'armistizio che verrà appunto firmato quel giorno e che verrà annunciato da Eisenhower. Insomma, il libro dà il quadro della grande confusione anche istituzionale che dominò quelle settimane e illustra un'illusione di libertà che durò molto poco perché i tedeschi occuparono Roma, e di quei giorni ci offre la cronaca con tutti gli eventi tragici che la segnarono, dalle retate degli ebrei alla famigerata banda Hoche, ai rallestramenti a via Raselle, alle fosse Ardetine, all'autentica fame che molti romani dovettero soffrire in quei mesi. E a questo punto il confettino. Segnalo oggi un libro per accostarci al sentimento dell'amicizia, È una parola di Arianna Papini, è pubblicato da Calandraca a 14 euro, una parola che ci può far sentire piccoli piccoli in un abbraccio grande grande, come ci spiega il libro. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Filippo Aureggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.